Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Per una volta, caro Maurizio, siamo anche in orario. 22 minuti, ben trovati in questo mercoledì 13 febbraio 2013. La voce è quella di Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro, in studio con Maurizio Calzavara. Ci sono i Nova Def, questa sera impersonati da Federico Russo. Ciao Federico, ciao, ben ciao. Arrivato qui a Blu Radio Veneto. Grazie. Federico viene da Pisa, ha fatto un ottimo viaggio. Sì, sì. Hai trovato la neve qua? A Pisa non c'era, c'era solo no, acqua. No. C'era... Freddo, hai trovato il freddo e la neve. Sì, sì. Devo dire, mi si è pure spaccata la pelle della mano per il freddo. Non sei abituato. Sono esperienze forti. Sì. È rigidina la situazione sì, qui. Sì, sì, sì. È abbastanza rigida, però musicalmente non è mai rigido qua. Si diverte sempre. Bene. Sono due ore abbondanti di musica, vera musica d'autore. Cominciamo con la vicenda della band. L'idea parte dal 1900 e nel 2004, Federico, sì, all'incirca, a sì, Pisa. Parte dalla... Pisa, l'idea è quella partita là. Eh sì, sì, poi in realtà metà della band viene da Livorno. Ah, quindi cioè, Pisa, come mai vi trovate tra pisani e livornesi? Mica sempre. No, infatti io dico sempre che noi siamo la prova che è possibile convivere esattamente armoniosamente. Però insomma è più un'eccezione. Ma però, la musica... Insomma. Praticamente unisce tutti, sì, non sì. Ci sono problemi. Allora, abbiamo detto 2004 c'è questa idea di costruzione della sì, band. Anche un pochino prima ci sono io nella mia cameretta che prima suono il basso, poi suono la chitarra, poi inizio a scrivere le canzoni, poi dico ma ora con queste poi incido il mio primo demino, poi dico e ora con questo demino che ci faccio? Appunto, devo suonarlo in fai? Giro, che faccio? Inizio a chiamare un po' di persone gente. E poi nasce una prima incarnazione della band e poi iniziano le prime sostituzioni. Cioè, c'è un po' di cambiamenti praticamente. Sì, sì, sì, sì. Avevi fatto un demo, un album ufficiale all'inizio, un primo album, un album avevo giovane. Avevo fatto un demo di tre pezzi in cui io suonavo tutto tranne la chitarra solista, la suonava Luca Guidi che poi è diventato il chitarrista dei Novadef attualmente, è tuttora il chitarrista dei Novadef. E la formazione attuale di Novadef come è composta? Beh, c'è Luca Guidi che è sempre stato con me appunto, come ti dicevo, mi accompagnava già quando ancora il gruppo non c'era. Poi c'è Ernesto Fontanella alla batteria e Fabrizio Balest al basso. E c'era Lorenzo Marianelli fino a qualche tempo fa come seconda chitarra. Ultimamente ho iniziato a sostituirlo io, però visto che so che ascolteremo i brani dal disco, lo dico perché nei brani suona anche Lorenzo Marianelli. Lo salutiamo Marianelli. Allora, sì, sarà l'ascolto chiaramente. Quindi c'è stato un primo album autoprodotto da voi totalmente. Sì, che si chiamava The Youth Album, sì. Abbiamo realizzato nel 2008. Non aveva etichetta, ce lo siamo un po' prodotto da noi a casa, inciso, mixato, masterizzato a casa del batterista. L'abbiamo venduto ai concerti. Avete venduto bene i concerti? Sì, insomma, sì. È andato abbastanza. E poi è arrivato Humoresque. Sono arrivate basso. Nuove canzoni. Che differenza c'è tra l'album precedente e questo Humoresque? Ma guarda, The Youth Album si chiama così anche perché sotto sotto io sentivo che era un disco della gioventù, nel senso era un disco in cui una band nata da poco ancora sperimenta con i generi, un po' di generi diversi. Fa una canzone nello stile del gruppo X, un'altra canzone nello stile del gruppo X, quindi secondo me The Youth Album aveva dei buoni pezzi, però molto derivativi. Cioè si sentiva molto il fatto di questa band che gioca di volta in volta a imitare le sue band preferite. Quindi questa volta in questo qualcosa che invece nuovo... abbiamo cercato di evitare in Humoresque, cercando di trovare un suono nostro, qualcosa che fosse... Humoresque non è un titolo semplice praticamente, un titolo un po' sì, particolare. Perché fa pensare subito a qualcosa di umoristico. Esattamente. E invece non no, è proprio così. Non fa per niente ridere, è un disco anzi molto triste, sappiatelo. E... No, in realtà Humoresque è un tipo di composizione, diciamo... In epoca romantica era il termine con cui venivano indicate le composizioni espressamente emotive, cioè quelle che volevano esprimere sentimenti in maniera forte. E questo disco vuole fare esprimere. Un po' quello, diciamo, cioè, un po'. Questo è un concept album, praticamente possiamo dire questo. Sì, diciamo, è il disco dove ho messo soprattutto lo sforzo nell'evocatività, nell'emotività. Ecco, che fossero canzoni che toccassero. Che danno qualcosa, che possono toccare le corde giuste. Sì, le corde emotive. Le corde emotive. Perché poi, insomma, si può fare musica in tante maniere diverse, possono toccare anche altre corde. Questo volevo proprio che fosse un disco da. da ascoltare, da un po' commuoversi, ecco. Benissimo, allora cominciamo. Poi, tra l'altro, scusa, stavo notando che nel vostro sito tutti i brani di entrambi i dischi si possono ascoltare, penso, per intero. Sì, sì, sì, sul nostro sito, sulla pagina Bandcamp. Sì, novadef.bandcamp.com. Sì, sì, sì, sì. Si può anche acquistare il disco, sì, da, sì, da lì. Il disco, 5 euro proprio. Il disco fisico. Mm-hmm. Quindi, invece dalla pagina Rockit si possono acquistare gli MP3. Buono, buono, buono. Bene, bene. Interessante. Buono a sapersi, chiaramente, per tutti i fans che stanno ascoltando stasera, che ce ne sono nonostante Sanremo, noi andiamo avanti lo stesso. Nonostante ci sia Elio e le storie tese a Sanremo. Sì, ma è uno, no, perché tutti dicono, io guardo Sanremo, ma solo per Elio e le storie tese. Si vergognano un po'. Elio e le storie tese dura 6 minuti, 7 minuti al massimo. Ma non lo sai quando lo so, ma si guarda la scaletta, si sa. Dici no. Esiste la scaletta in anticipo? Sì, si sa? Dicono, sì, che ci sia già la scaletta in anticipo di Sanremo. Dopo chiaramente ci sono i comici, ci sono gli interventi che possono dilatare la scaletta. Va bene, allora guardatevi alle storie tese e poi tornate qui, per favore. Fare tornate giusto. Sempre qua. Potete spegnere la televisione, mettere la televisione a zero e quando c'è alle storie tese alzarla leggermente, infatti, e spegnerla. Chiaramente il volume. Ma chiaramente no? Arriveranno alle storie tese nel momento in cui suonerò la canzone migliore. Vabbè, okay. Senti come suona bene alle storie tese. Benissimo, allora cominciamo con la canzone che abbiamo deciso di iniziare con questo pezzo, Man on Fire, un pezzo importante, praticamente collegato a una tragica vicenda di un poeta, di una protesta del poeta Alfredo Ormando del 1998, musicalmente un pezzo molto interessante, una ballad qualcuno ha scritto, sei d'accordo che sia una ballad? Una ballad no, un po', perché, non proprio una ballad. No, perché insomma è più rumoroso di quello che una non ballad tanto, vorrebbe. Però. Non tanto, un po' fluida. Sì, però c'è anche l'assolo di basso distorto, dai. Mi piace pensare che è una via di mezzo, non è proprio la ballad toccante, non è nemmeno il pezzo tirato. Ma è un grande pezzo. È qualcosa pezzo, di più interessante, nel senso qualcosa di più originale, forse. Ma è un grande pezzo, adesso lo sentiamo. Blu Radio Veneto. Fire, fire, fire. fire. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Federico Russo e i suoi Nova Def qui su Blue Radio a Blue Radio Veneto nel corso di Rock Wave Live del mercoledì. Maurizio. Questo è un pezzo molto importante perché avete vinto un premio importante, il premio Amnesty Emergenti con questo Amnesty pezzo. Amnesty Italia Emergenti. Esattamente. Sì. Che è collegato a un video, eccetera. E questo ci ha permesso, con ampliare gli orizzonti, chiaramente. Eh sì, perché insomma, oggi come oggi un videoclip ti aiuta, se non altro puoi spammare meglio su internet. E poi era il nostro primo video, la prima volta che ci misuravamo con questa con questo mezzo espressivo, quindi è stata una bellissima esperienza, quindi siamo rimasti, sì. Poi mi ha girato con un nostro amico che si chiama Giuseppe La Rosa. L'abbiamo ideato io e lui, girato a Livorno, tra l'altro. E all'ex caserma occupata, e quindi che ci hanno permesso di utilizzare. Quindi abbiamo trovato tanti amici che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo clip. E quindi è stata tutta una bella esperienza. Sì. Federico mi diceva, mentre il microfono era spento, che la bellezza del pezzo è anche la diversità dell'idea dell'arrangiamento. Tu avevi una certa idea, poi gli altri l'hanno leggermente modificata. Sì, perché vabbè, dicevamo prima che all'inizio c'ero io con le mie canzoni nella mia cameretta. Poi è arrivata la band chiaramente non fa, cioè, come dire, non sono degli esecutori a cui dai la partitura, ognuno mette del suo. Ognuno mette la sua personalità, la sua esperienza, soprattutto visto che siamo tutti musicisti che vengono da generi molto diversi. Giustamente, i musicisti che ti accompagnano vengono dal jazz o dal blues anche. Sì, i chitarristi soprattutto. Luca Guidi è più di ambito jazzistico, Marianelli era più di ambito blues, era, nel senso che ora non adesso è più nella band, più però band. Ha partecipato chiaramente disco. Al disco, quindi. E invece il batterista era batterista dei Guns N' Roses, che era un glorioso gruppo punk che io andavo a sentire quando ero al liceo. E poi non sapevo che stavo ascoltando quello che sarebbe diventato il mio batterista. E Federico da dove proviene musicalmente? Federico proviene, ma io sono un classicone come gusti, come ascolti, vado proprio, mi piacciono Bowie, U2, abbiamo citato prima Bowie, sempre ho gusti molto poco di nicchia, diciamo. Insomma, Bowie poteva essere di nicchia all'inizio di carriera. Sì, poi ha fatto di tutto per non esserlo. Poi si è pentito e ha cercato di ridiventarlo. Sì, esattamente. Stavamo parlando con Federico del nuovo disco di Bowie, del nuovo progetto Che ci eccita tutti. Esattamente, 15 marzo esce fra poco. Cosa ne pensi, Sergio, del nuovo disco di Bowie? Devo ancora sentirlo. Ah, il singolo, non ho ancora sentito. Il singolo non l'ho ancora sentito. Io lo trovo un bel pezzo. Qualcuno dice un po' troppo melenso, un po' troppo attivo, un po' troppo un po' con troppo, le ultime cose. Sai cosa? Un po' troppo Howards. Ecco, può darsi. E Howards non è proprio delle, non è un... secondo me non è delle riuscite migliori, quindi può darsi che sì, sì. Però magari il disco 15, sarà tutta un'altra cosa. Poi non dimentichiamoci che il penultimo album di Bowie, Ethan, era un disco bellissimo. È vero. Quindi insomma non è che non ha fatto più capolavori, no, dagli lui anni ha sempre 70, fatto insomma. Le cose però in silenzio, probabilmente lui voleva così e ha fatto una scelta chiaramente. Sì, no, ma l'avrà ponderata, insomma, certo, fidiamoci come... di Bowie. Esatto. Se non puoi fidarti sempre di Bowie, di chi ti fidi? Adesso ci fidiamo di Federico, chiaramente, in questo momento. No, meno. No, se Where Are We Now ce l'abbiamo e magari dopo me l'ascolto. Sì, sì, sì, sì. Esattamente, proprio quello. Buono. Bene, abbiamo parlato allora di questo pezzo, adesso parliamo di qualcosa d'altro, di cosa ci farai sentire dal vivo fra qualche secondo. Vi faccio sentire i pezzi che riesco a fare, voce e chitarra. Sì, stasera Federico è arrivato con una chitarra, chiaramente. Lui suona anche le tastiere, chiaramente. Sì, forse mi trovo più a mio agio con la tastiera, perché però stasera è più protettiva. Cioè, sì, va bene. Sì. Va bene, è proprio acustica al 100% stasera. Assolutamente. Quindi vi farei sentire Come What May. Perfetto. Che è il brano che chiude l'album. Ve la faccio sentire nella versione originale, cioè come era... Nata nella tua cameretta. Infatti dicevamo prima del gruppo, certe canzoni uno le porta al gruppo e suonano esattamente come voleva lui. Ma Non Fare invece è una canzone che non suona per niente come volevo io, ma mi piace molto di più, ecco, come l'ha fatta il gruppo. E poi dobbiamo sottolineare, questo è il pezzo che abbiamo scelto io e Alberto Pisco. Salutiamo Alberto Pisco, il nostro direttore artistico, come brano portante del disco. È una grande ballata al piano. Stasera la sentiamo in versione con la chitarra. Ah, Come At Me, no? Esatto. Mi chiedevo se... Sì, sì, era okay. Quella. Allora prendo la chitarra. Ok. È tutto in diretta, anche gli spostamenti, come giusto si deve a Rock Wave da live. Live, assolutamente live. Va bene qui? Va bene. Puoi andare. Usare il microfono in alto, magari? Sì, no. Adesso sta seduto, usa quelli piccoli. So I thank you, come with me. How many days for your desire? Listen to your teaching voice at night. My ordinary body dries, then I'll go. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. Joyful master, bring me down. Black hair sister, raise my crown. And I'll come out of a flower in your hand. My ordinary shape will bend, then I'll go. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. I ain't ready for all this. Direi che è bellissima, anche se la versione con la chitarra. La versione originale. Nata così. A me piaceva particolarmente. Poi abbiamo messo il pianoforte. Sì, bello. Come what may. Giusto, sì. Possiamo dire che questo pezzo l'abbiamo sentito parecchie volte io e il nostro direttore artistico, perché è bello, dà un certo senso, dà un certo trasporto, secondo me. Ora vi posso svelare un segreto. Dice, c'era anche di country testo... comunque nella sua cantata, secondo me, nella sua voce, sì. E che il testo non è mio, il testo l'ha scritto il mio amico Danilo Soscia, che è uno scrittore, un romanziere. Tra l'altro ha pubblicato da alcuni anni una raccolta di racconti per la Magna Editore che si chiama Condomino, e fra pochino dovrebbe uscire una nuova raccolta di racconti su Danilo Soscia. Bene, bene. Quindi, e come mai l'hai inserito come ultimo pezzo, Federico? Perché, dunque, c'è un motivo. Sì, perché esattamente come The Cold Room chiudeva The Youth Album, perché sentivo che era ciò che assomigliava di più a quello che avremmo fatto di lì in poi. Ho capito. Anche i due brani che chiudono Humoresque sono, anche se sono molto diversi, per quanto mi riguarda danno un po' due segnali anche contrastanti per ora, perché non so ancora dove andremo, però di ciò che potrebbe essere la musica che andremo a fare. Uno è Reconstruction of the Body, che è molto diversa da Come What May, e uno è Come What May, perché in questi anni ho scoperto sia il piacere di suonare in acustico, quindi mi piacerebbe se sperimentassimo un po' di più in questa direzione. Però contemporaneamente ho anche scoperto le tastiere, i synth, le drum machine, quindi qualcosa che va più verso l'elettronica, che è rappresentato non perfettamente da Reconstruction of the Body. Perché? Perché Reconstruction of the Body comunque ancora è un brano rock, cioè ci sono le chitarre elettriche, c'è la batteria vera. Però appunto ho voluto metterli in fondo questi due brani, perché secondo me sono le due strade che potremmo prendere da qui in avanti. Insomma, avete ancora tante cose da fare, da provare, da sperimentare, sia in un senso che nell'altro. Quello sicuramente. Sì. Un disco che ha tante facce, praticamente il folk, a parte, molto molto limitato, l'elettronica, l'indie, il rock, non il blues che non ami particolarmente, assolutamente, nonostante... No, però un pochino c'è. Poi qualcosina c'è. Anche perché appunto non ho mica suonato tutto io. Appunto, qualcosina c'è, perché il blues c'è dappertutto in ogni caso. Sì, ma poi per forza è inevitabile che riemerga, è l'origine di tutta la musica. È stato difficile comporre un disco simile rispetto all'album precedente, che era più grezzo, meno pesante dal punto di vista... Ma senti, comporre non lo so, perché non mi ricordo quanto tempo ho speso a scrivere le canzoni io. Sicuramente abbiamo speso un sacco di tempo in più in sala prove a studiare gli arrangiamenti. Io mi ricordo An Intruder, per esempio, ci siamo stati per dei mesi. È un pezzo bellissimo, tra parentesi, quello. E però ascolterete in versione acustica. Esatto. Però è bello lo stesso. Però andatevelo ad ascoltare sulla nostra pagina Bandcamp. Appunto. E ci siamo stati dei mesi, proprio tanti brani sono sopravvissuti a mesi e mesi di ciancicamento, come dire, quando proprio, no, sento che può esserci qualcosa di meglio, sento Man on Fire pure, litigi, discussioni, cosa vogliamo metterci qui, no, questa cosa non mi piace. Quindi sicuramente le canzoni hanno richiesto molto più sforzo da parte della band tutta per trovare insieme una via che fosse originale e che, al contrario di The Youth Album, non fosse semplicemente uno scimmiottare stili esistenti. Ma litigi e discussioni sempre democraticamente attuabili, interessanti, per trovare le giuste posizioni, le giuste contrapposizioni dei pezzi, praticamente. Cioè, non è che domani vi sciogliete, vi sta chiedendo. Beh, speriamo di no. Date fissate. Che, insomma... È stato un discorso ampio che si è sviluppato. Insomma. Sì, beh, eravamo tutti d'accordo che sicuramente ci mancava ancora un che di più personale, ecco, perché tutti quanti eravamo... Cioè, The Youth Album ci è servito a dire, va bene, dai, siamo in grado di fare un disco, di mettere insieme delle canzoni. Ora cerchiamo di fare qualcosa che suona Novadef e non che suona per Jam, Smith... Vostro, assolutamente vostro. Questo è positivo, è importante. Ok, 22-26, facciamo un altro pezzo da scaletta che, che abbiamo scelto precedentemente. Ti ricordi il titolo qual è? Mi pare Axolotl. Mi pare proprio di sì. Quello è proprio. Spieghiamo il titolo, sì, anche da dove proviene. Ne parliamo dopo, mm-hmm. Okay. Sì, sì. Wave. Rock Wave Live. Axolot, quindi Axolot è finale così. È una salamandra messicana, ma c'è una metafora sotto. Sì, vabbè, sì, è chiaro. No, in realtà chiariamo la metafora. Io pensavo che fosse un animale di fantasia, perché l'ho scoperto in un racconto di Cortázar, in cui c'era il protagonista che vedeva questo axolotl nell'acquario e poi si scambiavano di posto in pratica. E dalla descrizione io ero convinto, figurati, poi Cortázar, cioè uno scrittore che viaggia molto nel fantastico, e quindi mi immaginavo se l'ha inventato lui. E poi ho scoperto che esiste davvero. Sì, una salamandrina, la particolarità è che mantiene il metabolismo da girino, quindi invece di diventare anfibio resta subacqueo, insomma, che vive solo sott'acqua. E sì, è la metafora di chi non vuole crescere, di chi sta tanto comodo in una situazione, ma perché si deve sforzare di uscirne, insomma. Non fa fatica per non far fatica. Sì, è tanto più semplice così, ma perché sforzarsi, insomma. Alla luce degli avvenimenti odierni, del mondo di oggi, chiaramente entra anche quello. Sì, a parte poi bisogna vedere perché uno non si sforza, certo. Se non gli viene permesso, se non ce la fa, se non gliel'hanno insegnato, se non trova l'occasione, appunto. Musicalmente è un pezzo molto accattivante, divertente, con qualche chitarrina acida. È un singolone. Pensavo un funk con la F, funk rock. Ecco, anche qui. Sì, beh, ma sì, nel senso, io ho passato l'adolescenza, no, la preadolescenza ad ascoltare Michael Jackson, da qualche parte riuscirà fuori, insomma. appunto, quindi è un tanto singolo. Di cappello, sì, sì. È un singolone, sì, un anche singolone. Chissà, magari ne faremo un video. Può movimentare le platee. Mm-hmm. Cosa dici? Sì, magari a un ascoltatore un pochino più attento può sembrare il brano un po' più commerciale, un po' più furbetto. Sì, ma è commerciale? Commerciale bisogna un po' più furbetto, non commerciale. Ecco, esatto, furbetto. Più furbetto. Ma commerciale bisogna intendersi, cosa voglio dire. Un po' furbetto, il furbetto qualche volta non fa mica male. Mm-hmm. Basta non esagerare. Ma se dici? No, furbetto dà fastidio anche a me. Sì, perché infatti fastidio. Secondo me Axolotl non è furbetto, però sì, c'è differenza fra furbetto e sinceramente commerciale, ecco. Che differenza c'è secondo te? È quando lo senti che c'è un certo appiglio, come dire, che si vuole fare sì che chi ascolta si riconosca e dica figo, io sono così. Non so se mi spiego. Poi dopo magari nella prossima pausa penso a qualche esempio un po' più concreto. Ma cosa dici? Cosa dici, Sergio? È furbetto o sicuramente commerciale? La seconda, cioè, che sono due cose diverse. Sì. È quel commerciale intelligente. Ecco, sì. Quindi abbiamo approvato un commerciale intelligente. sì, beh, per quanto riguarda assolutamente. Ok, 22. Quel commerciale fatto bene. Ecco. Sì. 22:33, commerciale fatto bene. Intelligent pop. Perfetto. Ecco, yeah. Bello, intelligent pop, va proprio bene. C'era la intelligent dance qualche tempo fa, vero? Mi pare di non sì. Ricordo. L'ho sentito nominare, vabbè. Mi pare di sì, abbia sentito. Può essere. Sei molto esperto sulla dance intelligente, però insomma potrebbe andare. Adesso, a proposito di intelligente, adesso suoniamo qualcosa. Sì. Che cosa? Suoniamo An Intruder. Ah, quello è un pezzo molto bello, che stasera sarà versione acustica con la chitarra, nel disco è versione col piano, però è molto, è una ballata di grande spessore secondo me. Non è versione col piano nel disco? Beh, presunto piano. No, non è adesso. Ascolti troppa roba e fai confusione. È la chitarra, esatto, hai ragione. Effettivamente non era col piano, è la chitarra. Esatto. Ho capito. È una chitarra synth. Ecco, forse vedi, ti è sembrato. Ecco, mi è sembrato così. Ok. Vado? Sì. Such a gift, I never asked for a piece of trash I could never touch. Never touch. You cry too much, I cannot stand it. You speak too loud. Whenever you're drunk, you're drunk. You should know by now you're running through the in his arms. You should know by now you're running through the an intruder. Since you're gone, the walls keep weeping, I hear them sigh. Reach your very sky's still there, the trees keep falling, I'm stuck in here, waiting for some end, some kind of end. È una ballad, questo possiamo essere sicuri al 100%, quello sì. A voglia. Una bella ballad. An Intruder. Esattamente, inserita nella traccia numero 7, mi pare, sì, esattamente. Sì. Bel pezzo, veramente. Un altro pezzo che ci ha colpito particolarmente noi della redazione. Vi piacciono le ballad? Mi piacciono le ballad, sì. Perché le ballad fanno piacere musicalmente, hanno certe armonie, chitarra o piano che sia. Cosa dici? Cosa dico su cosa? Cosa dici? In genere delle ballad, ti piacciono le ballad? Sì, sì. Mica tanto però. Ho visto è che è importante che ce ne sia la giusta dose e poi basta. Sei stato spinto, o meglio la band ha spinto in questa direzione, oppure tu la volevi in un altro senso? Ma no, vabbè, questo è uno dei pezzi di cui vado più fiero, quindi sicuramente doveva essere nel disco. Humoresque, ecco, una particolarità che a me da autore piace molto di Humoresque è il fatto che siamo riusciti a fare un disco che ha un'atmosfera unitaria, ma non sono pezzi tutti uguali, anzi, sono molto contento nel riascoltarlo, nel percepire grosse differenze. Tante di genere, facce, praticamente. E riuscire però comunque a portare avanti un discorso unitario. E quindi secondo me An Intruder c'era ed era importante che non ci fosse un altro pezzo alla An Intruder. Ecco. Ah, ho capito. Cioè, tante facce, come immaginavo, tante diverse colorazioni, quello è importante del disco. Deve essere così, doveva essere. L'idea era quella, doveva essere così, e doveva proseguire così. Sì. Nonostante tutto, cosa dici? Sì, ma poi insomma i miei dischi preferiti sono quelli che non hanno tutti i pezzi tutti uguali. Adesso arrivano i tuoi dischi preferiti fra un quarto d'ora. Sì, adesso alle 11 ci sarà il discorso dei tuoi dischi preferiti. Ma te l'ho detto, saranno i dischi preferiti di tutti gli appassionati di rock, perché te l'ho detto, sono molto classicone, non ci sono grosse sensazioni. Ma non è detto. Non è detto, vedremo. Va bene. Ok. 22:40 quasi. Siamo a metà trasmissione quasi, ma abbiamo ancora tempo, abbiamo un'ora e un quarto per gestire, per cavalcare la tua musica, bellissimo. Sì. Musicalmente adesso cosa abbiamo scelto come traccia? Ti ricordi del disco? Mi ricordo che si chiama Wintertown. Cosa ne pensi di questo pezzo? A me l'ho trovato molto interessante. Ah, tra l'altro è un pezzo, uno dei pochi pezzi scritti a quattro mani, da me e da Luca Guidi. Mm. La prima parte è mia, la seconda parte è sua. Beh, io direi ascoltiamolo e poi ne parliamo. Lo commentiamo. Okay. It's time I see your face. I keep on. Posso dire una cosa? Sì, aspetta che ti apro. Vai, vai. Oh, un bel rock, bello. Bello tirato. Bello tirato. Ma tra l'altro devo dire bello, che lo ascoltavo bello. Qui con le cuffie in mono. Purtroppo sì. Tira di più in mono. Bisogna fare come i Beatles, bisogna farlo riuscire in mono sto disco. Poi i preascolti purtroppo era proprio bello alla fine. Alla fine sì, era sì, proprio sì, tirato. Tutto tipo bello. Jam Session. Si sentiva anche il basso. Sotteniamo il bassista che ha fatto un gran lavoro. In cui di solito poi con la band ci guardiamo e diciamo: ma sei ganzo, ma ti va di suonare insieme? Proponiamo alla proprietà di trasmettere in mono. Ha fatto un gran lavoro. A volte rende di più, sì sì. Ora torno e gli dico: più puro, più. Ritiriamo tutte le copie e facciamo uscire in mono, che esatto. Spinge molto di più. Il bassista ha fatto un gran lavoro. Wintertown, il bassista è un grandissimo bassista, Fabrizio Balest, che me lo invidia tutta Livorno. Ah, bene. E infatti suona con mezza Livorno. Esattamente. Sì, praticamente l'hai lasciato libero di fare quello che voleva. Sì, sì, no, ma poi insomma guarda, in realtà si sente com'è? La formazione jazzistica, quindi sì. Poi c'è sempre il momento in cui l'idea sfugge, l'idea non si ripete più, e io invece sono molto per l'idea che si ripete, sono molto minimalista, molto rock, mentre invece il jazzista è molto vaga, è molto jam session continuamente. Quindi un pochino bisogna mettergli un po' le redini, sì, però quindi... poi invece poi è bello anche lasciarli andare, è brutto parlare dei musicisti con le redini. Ma si parla bene, si parla bene. Ma che sto, cavalli? Ti stanno ascoltando? Non lo so, secondo me stanno guardando Sanremo in attesa di Elio e le storie. Beh, insomma, probabilmente avrà già cantato Elio e le storie. Non abbiamo Rai 1 qui. Non abbiamo Rai 1, è vero, sì. Beh, non abbiamo perso niente per adesso. Esattamente. La guardiamo da internet. Sì, esatto, guarderemo da internet. No, volevo... Adesso mi dici... Che caldo che fa qui, mi si secca la bocca ogni 3 secondi. Te l'ho detto io che l'acqua serve per quello. In ogni caso... Invece fuori sotto zero. Vabbè, scusami. Sì, un po' assurda la cosa, però... Mi dici un momento, che momento del racconto c'è questo pezzo? Wintertown è un po' il cuore, perché è il momento in cui il protagonista si guarda un po' allo specchio, insomma, quindi si descrive nella maniera più spietata e anche antipatica. Non è simpatico il protagonista di Humoresque, è una persona che è un po' lì ferma, non si muove, non prende decisioni, è rimasto bloccato da alcuni dolori e se li rivive piuttosto che andare avanti, che è un po' quello a cui mira un po' il disco è tutta una lunga veglia è tutta una lunga un lungo sonno da cui ci si risveglia poi alla fine, perché ora buttata così sembra una frase così, però in realtà ti accorgi che certi dolori sono protettivi e rivivi sempre un po' le stesse cose, perché è meglio riviversi quelle piuttosto che aprirsi a nuove possibilità, nuove incognite, e allora certe volte ti nascondi dietro una sofferenza, un lutto, un dispiacere, e resti lì fermo e preferisci giocartelo perché ti culla un po' quella cosa. È un po' questo il tema di Humoresque in generale, e il fatto che poi ti accorgi che così non vivi. E questo lungo sonno poi si risveglia e musicalmente prende, cioè, dà questa sensazione. L'hai creata per quel motivo là? Sì, in realtà, come dico nel testo di presentazione del disco, quel momento ancora non arriva, il momento del risveglio vero e proprio. Lo si intuisce con Come What May. Certo. Però mi riservo di raccontarlo nel più prossimo avanti, disco. Insomma, sì. Che già, hai già qualche idea? Sì, sì, sì, tante. No, poi tra l'altro è musica, come dicevo prima, secondo per quanto mi riguarda, con questo disco ho un po' esaurito le canzoni un po' commoventi, le canzoni da struggimento. Ah, capito. Voglio fare una musica un po' diversa, un po' più fredda, se vuoi, sul piano emotivo, però. E qualcosa poi magari la sentiremo, ascolteremo il brano. Ti butti sul noise? No, non ancora. Però su qualcosa di. Su qualcosa di più potente. Sì. Ok. Benissimo, adesso facciamo un altro pezzo live. Ma dai, sì, dai. Facciamo I Dance with a Smile. Perfetto. Ricordiamo che abbiamo ospite in Nova Def. Sì, qui Federico a Radio Russo. Veneto, ovviamente sì, c'è solamente lui. Esattamente. Quella la voce della band. Voce, chitarrista, vocalist. Poliedrico, esattamente. Stasera con la chitarra, altri giorni con le tastiere, a seconda dei momenti. Dell'umore. Dell'umore, esatto. Thank you. dressed up in sentimental tracks. I sit still and watch a story from its end. Dressed up in sentimental tracks. I should melt, but I just quiver in your hands. I don't wanna know whose fault is that. I am the one who gets lonely in this hollow depth. Dead and sweet, that's where I'm at. I don't think I can handle it when stuff comes to an end. But I'm so glad it ends, and it ends with a smile. So glad it ends, and it ends in this eyes. So glad it ends, and it ends with a smile. So glad it ends, and it ends in this eyes, in this eyes. Dressed up in sentimental tracks, I sit still and watch a story from its end. Say you don't like leaving stuff. Whatever this is, whatever this is, whatever this is, whatever this is, I am so glad it ends, and it ends with a smile. So glad it ends, and it ends in this eyes. So glad it ends, and it ends with a smile. So glad it ends, and it ends in this eyes, in this eyes, in this eyes, in this eyes. Ice. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Insomma, finisce con un sorriso. Sì, intenso, with a smile. Mm-hmm. Sì, effettivamente con un sorriso ironico, come tu hai detto. Sì, perché poi in realtà finisce nel ghiaccio, quindi nella freddezza più totale. Sì. Musicalmente l'hai proprio ridotta scheletricamente quella chitarra. Dal punto di vista, nel disco è un po' più sostenuta, decisamente. Non è sostenuta. Nel disco ci sono dei signori chitarristi che ci fanno delle signore cose. Io mi limito a fare gli accordi. Ma probabilmente è nata così, però. Come l'hai fatta adesso? No, era nata abbastanza diversa. Ah. È nata un pezzo alla Franz Ferdinand con vari effettini strani. No. Poi ho scoperto che poi funzionava anche voce chitarra acustica. Però questa no, questa mi ha sorpreso. Ecco, questo è un pezzo che rifatto dalla band mi ha sorpreso, perché la band positivamente me l'ha fatto suonare più bello di quello che mi sembrava all'inizio. Ho capito, come l'avevi creato te praticamente. Adesso parliamo di una cosa molto interessante, che è il libretto. Adesso me lo descrivi te, da dove parte l'idea, da dove è partita, chi l'ha fatto, eccetera. Allora, l'abbiamo realizzato con una bravissima fotografa di Roma che si chiama Susanita, che è il nome d'arte chiaramente, in realtà si chiama Valentina Fontanella. Siamo andati a casa di un mio amico, abbiamo fatto un po' di fotografie e poi in realtà la fotografia fatta più così, meno pensata, che era questa fotografia dell'interno di un orologio rotto che stava lì in questa casa, è diventata la copertina del disco. Perché a parte a me, io ho questa regola che se sulla copertina compare il musicista non sarà un buon disco. Perché? Perché secondo me è una scelta un po' troppo da musicista troppo pop furbo. Ah, egocentrica. Con un'eccezione, Grace di Jeff Buckley. Ecco, che è l'eccezione che conferma la regola. Però di solito a me non piace che sulla copertina compaia il musicista o il gruppo. Mi piace che ci sia qualcosa di diverso. E invece inizialmente il progetto era di rappresentare me appunto con questo completo, un giacca e cravatta, e poi però abbiamo visto questa foto che ci piaceva tanto anche per il gioco di luci colorate in maniera diversa, quindi c'è una luce più dorata, una luce più fredda, e abbiamo detto no, questa deve essere assolutamente la copertina, e così mi sono salvato perché posso portare avanti questa mia teoria che se in copertina non c'è... Quindi non ci sarà mai, non ci sarà mai la tua band o te in copertina quando ci saranno i tuoi dischi? No, no. No, assolutamente no. No, non mi piace. No. Vabbè, ok. Una scelta, giustamente. Può darsi che sia anche vero. Sì, o magari ci sono anche vie di mezzo, tipo per esempio, siccome so che stiamo andando verso la rubrica dei dischi preferiti. Sì. Appunto. C'è qualche eccezione, per esempio qualche disco degli U2, però magari lì non c'è solo il gruppo messo lì che ti guarda, sono calati in uno scenario, non so, penso alla copertina di Unforgettable Fire, certo. Quella di Acton Baby, certo. Che è bellissima, è il mio disco preferito degli U2. Lì appunto non c'è solo la band. Io ho proprio questo rigetto per i dischi dove sulla copertina c'è solo il cantante o il gruppo lì fermi che ti guardano e basta. Sì, ma nei Pink non c'è mai il gruppo praticamente. Scusi, gli inizi, ma non c'è mai il gruppo nei Pink Floyd, per esempio. Eh no, infatti. Appunto, Atom Heart Mother è un artefice che non c'è assolutamente il gruppo. Genesis. Sì, esatto. Quindi forse hai ragione. Prova a farci caso. Pensaci un pochino. Hai detto una cosa giusta, scuso Jeff Buckley. Anzi, Rem. Anche Rem, esattamente. Quasi, assolutamente. Non trovi mai la foto di loro così. Esattamente. Pensa a gente tipo Rihanna. Ma quello è un altro par di maniche. Lo so, però è un paio di maniche che a me piace molto di meno. Quindi è quello che mi... sì, piacciono per chi altri, però francamente Rihanna, purtroppo. De gustibus. 22:56. Ci siamo quasi arrivati al discorso dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. Però prima sentiamo un altro pezzo da disco che abbiamo scelto, la scaletta. Che pezzo c'è, Sergio, adesso? La traccia numero 5 che non ho ancora preparato. Si chiama Fall From Grace Together. L'ascoltiamo e poi ne parliamo? Sì, è un pezzo un po' particolare questo, secondo me. Adesso lo sentiamo. Sono tutti pezzi particolari. Molto dai. Particolari, sì, sì. You should go right now. I'm Stavolta le 23 le abbiamo toccate per davvero. Ricordiamo con noi Nova Def nella voce e presenza di Federico. Presenza. In diretta qui su Blu Radio Veneto fino alle 24 in Rock Wave Live del mercoledì. Maurizio, e adesso? Adesso facciamo un mezzo. Anzi, prima parliamo del pezzo. Esatto, sì. Fall from Grace Together. Yes. Un pezzo molto interessante. Un critico ha scritto un po' Editors. Sì, possiamo sì, essere d'accordo. Assolutamente sì. E poi Radiohead, che bene o male transitano. Vabbè, sempre. Ma Radiohead, cioè, ragazzi. Diciamo ragazzi, cosa, Radiohead sono i Beatles della mia generazione. Appunto. È inutile, cioè, chiunque si mette a fare questo genere qui un po' dei Radiohead deve prendere. Se non lo prende, non ha capito un cazzo. Cioè, nel senso, non ha capito niente. Non ha capito niente, nel senso che. È come dire a un gruppo che fa rock, che faceva rock negli anni 60, suoni un po' la Beatles, ma è inevitabile perché possono quei gruppi da cui devi passare per forza. E poi hai citato anche i Blur, però, sei d'accordo con i Blur? Sì, devo dire, i Blur non sono mai stati un mio grandissimo amore, però li ho ascoltati sicuramente. Lo sai che si sono ricostituiti, no? Adesso verranno ecco, in concerto esempio, a Milano, sì. A quanto sembra sì. Ma anche con un disco nuovo? Non so se è il disco nuovo, si sono ricostituiti, cioè non si erano mai sciolti ufficialmente, ognuno è andato. Io ho un po' paura di queste reunion. Ma non sono infatti, ho tanto stimato i Pixies perché hanno fatto la reunion, ma non hanno fatto un disco nuovo. Non so se andavi a sentirli dal vivo e ti facevano solo i pezzi dei loro quattro album. E tra l'altro mi piaceva molto il fatto che spesso facevano dei blocchi di 3-4 pezzi nell'ordine in cui erano nella tracklist del disco. Ah, bellissimo questo! È una cosa che mi piaceva tanto. Mi fece innamorare nuovamente di loro. Bene, bene. Quindi i Blur saranno in tournée in Italia. Non so se ci sarà il disco nuovo, però la formazione originale. Bene, interessante. Meritano. Quindi formazione originale. Adesso originalmente ci citiamo i 5 dischi da portare sull'isola deserta, visto che sono le 11, come ha ricordato Sergio. È il primo che dice che 5 sono pochi. Ma 5 sono pochi. Ah, sì. Certi vanno in panico con 3. Sì. Appunto, non possiamo fare una trasmissione intera, caro Federico. Si dovrebbe però. Sì. Se vuole farne anche 10. Guarda, senti tempo come ce n'è. Senti come me la tiro. 7, dai. Senti come me la tiro. Dai, allora parliamo solo di rock, non di musica classica. Senti come me la tira, bello ganzo, eh. Allora devo tagliare via la musica classica, peccato. Fai come vuoi. Senti, allora. Dimmi. Facciamo 7, citavo... Facciamo una cosa di mezzo. Vabbè, 7, vabbè. Allora facciamo Acton Baby degli U2. Che hai già che citato prima. Sì. Up di Rem. Come mai Up di Rem? Che non è un disco famosissimo di Perché Rem. Secondo me sono tutte canzoni bellissime. Mm. E poi hanno quegli arrangiamenti strani, perché è un'elettronica, ma è un'elettronica un po' vintage, ma non è vintage nel senso che possiamo dargli ora, cioè fatta apposta per suonare vecchia. È vintage nel senso che usavano delle tastierine molto, molto minimaliste, molto povere. E però è il disco, secondo me è il loro disco più ispirato, perché non c'è una canzone brutta in quel disco lì. Perfetto. In tutte le altre qualche riempitivo magari ce lo senti, addirittura ogni tanto ci mettevano delle cover nei primi sì. dischi. Però Up, sì, proprio il mio amore sconfinato. Bene. Poi io direi Blue di Joni Mitchell. Ah, quello è molto bello. Non puoi io mettere Blue di Joni Mitchell. Sono molto contento che tu abbia citato Joni Mitchell, che Blue è un disco meraviglioso. Meraviglioso. Guarda, sono poi tra l'altro sono a confronto le due grandi passioni del liceo, cioè gli U2 e i Rem, e le due grandi passioni dei 30 anni, che sono Joni Mitchell e David Bowie. Ah, bene. E di Bowie, però di Bowie quale disco ti dico? Ce ne sono tanti. Non lo puoi scegliere, cioè ti posso dire Heroes, ti posso dire Low. A me piace molto Heroes. E io ti dico Diamond Dogs, guarda. Perfetto, Diamond Dogs. Oppure i primi Space Oddity. Sì, no, invece mi piace più niente. Nella fase Diamond Dogs e anche poi la fase americana. Bowie è bello tutto, dai. Guarda, a me piacciono perfino i Tin Machine. A me mica tanto. Ma chiunque con un po' di buonsenso non piacciono i Tin Machine. Quanti ne ho detti? Ne hai detti 4, mi pare. 4? Beh, allora aggiungiamo Songs of Faith and Devotion di Depeche Mode. Bello quello come scelta di Depeche. Perché i Depeche Mode, caro Federico? Perché ti piacciono i Depeche Mode? Perché mi piacciono, insomma, perché sono dei signori autori. Quello sì. Tra l'altro, Songs of Faith and Devotion è un disco particolare perché era il primo disco in cui si provavano a misurare un po' con il rock, con le chitarre elettriche. E quindi c'era un po' di tentativo di non suonare più troppo classicamente Depeche Mode. I loro pezzi, certo. E in realtà secondo me ci sono delle canzoni belle. Secondo me la canzone più bella al mondo è Enjoy the Silence di Depeche Mode. Però Violator mi piace un po' meno. Songs of Faith and Devotion in generale sono tutte canzoni più belle. E poi, tra l'altro sì, mi rendo conto che sono quasi tutti dischi di artisti che per una volta provano a fare qualcosa di un po' diverso. Perché Acton Baby era una grossa svolta per gli U2. Up con tutta quella elettronica era lo stesso per i REM. È un po' quella fase in cui l'artista si rende conto: ho un po' detto tutto quello che potevo, no, voglio tentare questa nuova via, no. Che è la fase più eccitante per chi ascolta un gruppo e anche la più per chi lo segue con amore. Eh sì, sì, perché è il momento in cui viene fuori veramente l'arte. Chiaro. E basta, che ti devo dire? No, proseguiamo ancora. Vabbè, siamo italiani, mettiamoci De André, volume 8. Come mai De Gregori e De André, volume 8? È perché la perché cattiva strada perché secondo me De André si sceglieva molto bene i collaboratori, quindi lui con faceva molta fatica dei collaboratori, sì. Lo sai la però storia lui, sì, che lui dormiva di notte, cioè di giorno e lavorava di notte, sì, chiaramente, sì, sì. E De Gregori al contrario, quindi non si incontravano mai e in questa maniera riuscivano a collaborare. È vero. E se no non ci sarebbero riusciti. La storia è proprio così. E volume 8 perché sì, appunto, visto che De André ha sempre scelto dei collaboratori che gli scrivessero le musiche, li ha sempre scelti bene. Quando si è scelto De Gregori, che lo aiutava perfino con i testi, cosa vuoi di più di De Gregori e De André insieme, insomma, quindi è stato il anche con Bubola ha fatto una cosa simile. Sì, ma io sono più del De André con Piovani. Quella è la fase che mi piace di più, però lì con De Gregori è qualcosa di troppo speciale, insomma, e si sente, insomma. Bene. Ne manca ancora uno? Sì, uno o due, dai, è lo stesso. Visto che abbiamo tempo e siamo io e te e Sergio da soli, praticamente non ci sono altri protagonisti. Uno di musica classica te la metto. Dai. Il Requiem di Fauré. Secondo me è la musica più bella mai composta. Quindi un pochettino di musica classica fa bene alla salute, sempre. E poi cos'altro ti posso dire? Abbiamo citato italiani, abbiamo citato americani, abbiamo citato inglesi. Americani che abbiamo citato, vabbè, solo i REM. Solo i REM. Sì. Dimmene uno pop. Ecco, esatto. Beh, Michael Jackson, dai, Michael Jackson lo devi ascoltare. Ma quale Michael Jackson? Che periodo di Michael Jackson? Senti, Michael Jackson fino a Dangerous. Perché poi dopo si è un po' perso, sia di testa che artisticamente. Sì, però sì, ancora Dangerous, secondo me ci sono delle cose. Si sente che sta iniziando a ripetersi. Cioè, che non è più Michael Jackson che detta la via e gli altri che seguono, ma è Michael Jackson che segue la via dettata dagli altri. Aveva lo stesso produttore, però, dopo. Ma Dangerous era il primo senza Quincy Jones. E già la catena si stava. Ma secondo me spezzando. Quello l'ha scelto perché pensava di rinnovarsi. Così invece così si è sperso molto di più. Però secondo me sì, Thriller e Bad, ma anche Off the Wall, tutti i dischi che per chi fa pop devono essere un po' l'ABC. E lo dico che sia chiaro, perché io ho amato Michael Jackson fin da quando ero piccolo, non ho mai smesso. Non sono di quelli che sono saliti sul carro di Michael Jackson subito dopo la morte. Mamma e mia. Trovavi sì, gente sì, insospettabile. Sì. Io, miei coetanei che al liceo mi prendevano per il culo perché ascoltavo Michael Jackson, che li ritrovo, che pubblicano Michael Jackson sulle loro bacheche di Facebook. Ma come? Ma allora? Che volta gabbana. Veramente. Questo è vero. Sì. Capita spesso e volentieri quando uno se ne va, purtroppo. Va bene, abbiamo ancora uno, dai. Scegliene ancora uno. Spirit of Eden di Tok Tok. Come mai Tok Tok? Bello questo. Perché i Tok Tok hanno fatto una parabola stupenda artisticamente. Perché hanno iniziato sembravano dei Duran Duran. Sì, vero. E lo dico meglio, in senso meglio, un po' spregiativo. Meglio. No, il primo disco secondo me, a me piaceva è genere dei Duran Duran ma peggio. Ma insomma bisogna. Sto parlando di The Party Is Over. Ah beh sì. Io li ho vestiti dal diva, mi sembravano molto interessanti all'epoca. Sì, ma infatti già nel secondo disco Such a Shame, bello. Che non è la l'album beh, non beh. Si chiama Such a Shame, no, il singolo famoso. E poi già nel disco dopo, che era The Color of Spring, ma poi con Spirit of Eden, ma anche Life in Stock, che è quello che hanno fatto con un'altra etichetta, è introvabile, ho dovuto trovare via import, quando ancora non era facile, quando ancora non c'era eBay. E ma hanno fatto una parabola nel giro di 4 dischi. Sono passati dal pop alla Duran Duran a roba che se la senti ora sembra di Sigur Rós. Sì. E invece è fatto molto prima di Sigur Rós. E secondo me è molto meglio dei suoi, molto più rivoluzionario dei Sigur Rós. Sì, ma molto trasgressivi. Cioè proprio hanno tagliato di netto. Sì. È un disco bellissimo. Spirit of Eden. I Believe in You era il singolo. Se non mi pare di sì. Io lo ricordo il chitarrista, il vocalista, cioè Mark Hollis. Che ha fatto aveva quegli anche occhialini alla John Lennon. Me lo ricordo. Sì, vabbè, ci assomigliava pure. Però se lo vedi ora sembra Thom Yorke. C'ha qualcosa di Thom Yorke. Però 10 anni prima di Thom Yorke. Bene. Altro, Pyramid Song, per chi ama i Radiohead, Pyramid Song era un tentativo dei Radiohead di imitare l'album solista di Mark Hollis. Ah, questo non lo sapevo. Interessante. Bene, 23:10 abbiamo variato e girato. Bellissimo. Abbiamo sentito un po' di tutto. Ti aggiungo ancora un disco, dai, così dai. Poi connetto il prossimo prezzo. Homogenic di Björk. Sì, c'è un motivo adesso. Perché adesso vi eseguirò una cover. Esattamente, di Bjork. Di Bjork, ma che non è tratta da Homogenic, ma da Post. Esattamente. Particolare Bjork. Particolare Bjork. Molto particolare. Mm-hmm, molto. Federico, un po' difficile anche sì, a volte. Decisamente difficile. Federico è molto bravo, ho sentito per prima. Per dire piacere era... oppure no. Sì, è un disco... Cioè, la musica di Bjork è particolarissima. Mm-hmm. A me piaceva quando aveva la band, caro Federico. Come? Qua aveva la band all'inizio, islandese, ti ricordi la band, la sua band di Bjork? Ah, gli Sugar Cube. Esattamente, a me piaceva molto. Sì, sì. Poi chiaramente ha fatto la carriera solista. No, io preferisco la Bjork, perché quella era... Quando ha iniziato a fare la musica alla Bjork... Si è rivelata per quel geniaccio. È un che grande è. Genio. Molto complicato, però, qualche volta. Assolutamente complicato. Quasi inascoltabile in alcuni momenti. Beh, ma sono quei musicisti che hanno. Posso parlare qui? Certo, vai, certo, certo. Quei musicisti che inventano un tipo di musica che è solo loro. Cioè, esiste una canzone alla Bjork. E quando fai questo, sei arrivato, insomma. No... Non ti si può dire più nulla. Allora, vuol dire che tu sei arrivato se fai una canzone. No, perché io sto facendo una canzone di Bjork, non alla, alla Federico Russo. Ok, ok. Stand up. You've got to manage. I won't sympathize. Once more, you'll meet them, army of me. And if you complain, once more, you'll meet them, army of me, army of me. You're alright, there's nothing wrong. Sufficiency, please, and get to work. And if you complain once more, you'll meet an army of me. And if you complain once more, you'll meet an army of me. Army of me. You're on your own now. We won't save you. Your rescue squad is too exhausted. If you complain once more, you meet them, army of me. And if you complain once more, you meet them, army of me. And if you complain once more, you meet them, army of me. Complain once more, you'll meet them, army of me, army of me. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. In Rock Wave Live di questo mercoledì sera abbiamo ospite Federico Russo dei Nova Def da Pisa. Pisa. Posso dirti, Federico, in 10 anni quasi, vero Sergio, che facciamo Rock Wave, la prima volta in assoluto che un artista faccia una cover di Bjork. Per di più maschile. È più maschile, esatto, sì. Molto, secondo me è una cosa coraggiosa, non è facile la musica sua, è molto complessa. Come mai ti sei avvicinato a un artista? A meno che così... non la... A meno che non la rendi tua, forse. Vabbè, io ci ho messo gli accordi che nell'originale certo, non c'erano. Certo. Come ti sei avvicinato a una musicista così complessa, così multiforme, dai tanti colori, dai tante immagini? Vabbè, ma Bjork è la nuova musica classica, dai. Come dicevo prima, sono quegli artisti che fanno qualche... riescono a creare non solo a fare delle belle canzoni, ma proprio a creare un genere di musica proprio lì li devi studiare, devi, se vuoi fare popular music, se vuoi fare pop rock, devi conoscerli, devi approfondirli, insomma. Anche una nel palcoscenico chiaramente inventa continuamente, quando sale nel palcoscenico non si sa mai, sì, pure che troppo fa. Esatto, non però si sa mai quello un che artista fa. Lo apprezzi anche quando, certo, esagera, diciamo. E quindi sì, no, sono quelle cose. Io ho molto l'approccio dello studioso, cioè vuoi fare questa cosa, devi sapere bene chi l'ha fatta prima, come l'ha fatta, se quello però che sei Pisano, fai assomiglia in tutti i sensi. Qua sei Pisano in tutti i sensi. Sì, nel senso che Pisa città di università, io ho l'approccio sì da studioso, sì, ecco, sì, vero. Beh, un bel universitario. Beh, io mi sono anche laureato in popular music. Ah, vedi. Ho fatto cioè tesina triennale su OK Computer The Radiohead, proprio con analisi musicologica degli arrangiamenti, degli accordi, interessante, e tutto questo quanto. Sì. E la tesi, quella specialistica, quella, la tesi vera, l'ho fatta sulle cover di Time After Time di Cyndi Lauper, che molti non lo sanno, ma è una canzone coveratissima. Beh, io ricordo quello di Miles Davis. Ma Miles Davis è stato il primo a coverarla e l'ha trasformata in uno standard jazz. Certo. E poi è diventato un brano ricorrente in tanti ambiti dell'indie rock, e poi è diventata una ballad country dopo che l'ha fatta Eva Cassidy. E si è... In origine di chi era? Di Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Sempre sua, sempre sua, comunque sua. Sua, scritta a quattro mani col tastierista del gruppo che adesso non mi ricordo, non mi ricordo il nome, forse dopo mi verrà in mente. Però sì, tra l'altro scritta di rincorsa quando il disco era quasi terminato. Si sono messi lì una sera al pianoforte, il produttore gli ha detto: guardate, il disco è già pronto, però secondo me un pezzo in più, magari un pezzo un po' più sentimentale, così ci starebbe bene. Ma messo sì, insieme due pezzi, via, due note. E guarda che pezzona che è venuto fuori Time After Time. E come mai secondo te Federico ha avuto queste tante cover su un pezzo simile? C'è un motivo? Perché tu hai studiato anche questo, il motivo per cui è stata coverizzata. Allora, il motivo è che secondo me è una canzone che funziona molto bene, è un classico, è diventata un classico subito. E però contemporaneamente non è una cover che mette timore. Cioè una cover dove ti senti spronato a farla tua. Il bello, interessante questa frase. Non è una cover che mette timore, cioè che perché poi, se che ti puoi metti trasformarla. Perché se ti metti a fare i Beatles, ti stai o i Radiohead, cioè ti confronti con quello, o hai veramente gli attributi, sì, gli attributi per misurarti con, esatto, loro, o se no ne esci comunque perdente. Cyndi Lauper alla fine non è, cioè io l'amo tantissimo, però non è la figura intoccabile della storia del pop. Quindi tantissimi artisti si sono sentiti molto liberi di farla propria questa canzone, e sono venute fuori tante cose interessanti. Almeno 97 artisti, dice Wikipedia, hanno inciso o cantato una cover di questo brano. Io ne ho trovati 200. Però li ho anche catalogati, messi tutti insieme. Non li ho ascoltati tutti perché non è impossibile. Ma vabbè, poi bisogna vedere anche chi e perché. Perché per esempio almeno una trentina sono cover da parte di idol giapponesi che non sentiremo mai e che magari non ascoltano neanche i giapponesi, ma che non sono nemmeno tanto interessanti, no, perché sono cover. Sì. Per esempio un artista canadese, se non sbaglio, si chiama Kate Shoot, che fece una cover delirante, faceva accordi a caso sulla chitarra praticamente, e la melodia non era più una melodia. Però appunto questo perché? Perché è una canzone che secondo me è molto bella, però contemporaneamente non mette soggezione, cioè l'artista che ci si avvicina si sente libero di fare qualunque cosa e che non verrà confrontato col mostro sacro. Sì, no, proprio rifatta veramente tutti, di tutti i generi, di tutti, da Ronan Keating agli Uters. Ronan Keating l'ha fatta con l'orchestra, per un album uscito il giorno della festa della mamma, dedicato a caro. Si chiama, mi sa, proprio Bon Jovi, Songs for My Mother. Phil Collins, mamma quanti. Sì. Bene, sì, ma poi non tutti l'hanno incisa, magari qualcuno l'ha fatta dal vivo un paio di volte. Sì. E secondo te perché Federico è un po' scomparsa Cyndi Lauper? Il successo è talmente stato grande, pesante per lei? Ma no, secondo me perché Cyndi Lauper nasceva talmente come fenomeno tipicamente anni 80 e non è riuscita a mantenersi. Sì, perché comunque, tra l'altro questo lo dicevo pure nella mia tesi, che era palese anche solo dai videoclip, dal tipo di personalità che le davano, che era molto quello che lei rappresentava, molto quello che il mercato voleva in quel momento. Era una sorta di rivale di Madonna. Sì. Madonna poi è riuscita a rinnovarsi anche musicalmente, e lei no, probabilmente anche perché lei forse ha meno dimestichezza col songwriting. Mi sembra che abbia sempre cercato troppi collaboratori. Magari Madonna faceva un disco con un coautore, mentre lei ogni disco sono 10 coautori diversi. Ho capito. E lei in qualche modo è talmente diventata icona di quegli anni lì che già 3 anni dopo, lei il primo album l'ha pubblicato nell'84, secondo me già nell'88 lei era qualcosa di superato e non è riuscita a convincere che poteva ancora dire qualcosa. Poi boh, lei ha suonato anche successivamente, comunque anche in anni recenti. Sì, ma lei ha continuato. Sì. Lei ultimamente ha fatto un disco di blues, di standard blues, se non sbaglio. E quindi no, lei sicuramente vive ancora di musica, ecco, non è che è finita. Beh, i diritti d'autore ho preso con degli After Time. Penso che già solo per quello. Esattamente, ricordiamo che Edda Cassidy ha avuto un successo postumo grazie anche a questo pezzo. È stata rilanciata da questo pezzo. Sì, poverina, lei era lì che faceva ancora le serate nei pub. Esattamente. E dopo le è arrivato un successo, è arrivata a Top of the Pops. È vero, è così. Quello. Capita, storia triste, sì. Esattamente. Beh, fino al 2005 ha venduto 60 milioni di copie nel mondo, quindi penso. Ma Time After Time o album? Degli album. Ah, cioè di copie di album di Cyndi Lauper. Sì, in tutto i suoi album. Sì, ma album, lei è stata. Quindi ci voglio dire, insomma. No, ma lei è. Non è che ci preoccupiamo se magari sta morendo di fame. No, assolutamente. Non penso proprio che si ritroverà a servire gli hamburger da McDonald's. Ecco. No, insomma, solo i diritti d'autore della trasposizione di Miles Davis penso sia guadagnata da vivere assolutamente per il resto della sua vita. Sì. Questo è chiaro. Benissimo. Bella, questa è una cosa molto interessante che non sapevo. Siamo onorati di sapere che hai fatto una cosa di questo genere. Molto bello, veramente. È stato molto divertente, proprio perché così ho viaggiato attraverso tanti generi diversi. E poi sai, la tesi comunque è una cosa seria, quindi comunque non puoi semplicemente dire il tale gruppo fa la cover punk. Sì. Devi spiegare cos'è il punk, cosa vuol dire fare la cover punk, perché questa cover è punk. E quindi vai un po' più addentro alle cose che ami, che è la cosa più bella. In maniera analitica, sì. Molto molto positivo, veramente. 23, 22 e 16 secondi. Cosa sentiamo? Sentiamo un pezzo da disco adesso, così ti riposi. Poi facciamo un bel flash. Un flash finale. Una tirata verso la fine. Uh-huh. Ascoltiamo Reconstruction of the Body. Sì, esattamente, penso che sia quella la traccia. Un attimino, ragazzi. Vediamo perché. E la traccia del numero, ti dico subito. La 10. Era scritto giusto, okay. Eccola qui. Stronger than you think, healthier than I thought I was before. Stronger than you think, healthier than I thought I was before. Boni. Colti un po' di sorpresa, 23-27 minuti, siamo tornati. Ho sentito di chi stavo parlando male. No, solo wow e basta. Prova a immaginare, Sergio. No, è un artista famoso a livello nazionale, quindi non è una persona, un amico. Esattamente. Ok, abbiamo parlato, abbiamo sentito questo pezzo, abbastanza interessante. Siamo tornati un po' alle sonorità un po' più triste, sì, un po' più... Questa voce filtrata, nel ritornello no, come sì, giustamente, però è bello essere la voce filtrata da una contrapposizione, come tu mi hai detto. È una maniera per rinnovare un po', che poi alla fine insomma la voce è quella, cioè 10 pezzi tutti di fila, tutti con la stessa voce, vengono un po' annoia. Infatti notavo che non ci sono grossi effetti sulla voce, è la tua. Vabbè, chiaramente un po' di compressione, quelle cose lì, vabbè, però... Sì, in realtà no, un pochini ce n'è. Però sicuramente su questo, cioè, c'è la voce, sono più evidenti. Tipo, chiamiamola megafono, come mettono certi gruppi che sono stati anche qui, per carità. Questo è l'unico caso in cui è esplicita la distorsione. Anche negli altri c'è un po' di filtrini, un po' di echi, ci sono. Per carità, le cose minime, cioè, giuste, che vanno messe. Posso sparare un po' R&B questo pezzo? Sì. Posso sparare giusto, allora? Sì. Leggermente sì, dai. Sì. Vabbè, no. Hai ragione. Io l'ho sentito così, no? Quindi tante facce, come un abbiamo... po' ultimi Radiohead, ecco. Sì, ecco, ultimi Radiohead, sì, questo sì. Anche se loro non ci avrebbero messo poi alla fine la chitarra distorta, noi ancora siamo legati un pochino. Ultimi a questa... Radiohead, sì. Noi vogliamo ancora fare casino. E quello di Thom Yorke da solista, quelli più complicati, cosa ne pensi? Soprattutto il primo, il secondo un po' meno, il primo. Ma il secondo, cioè gli Atoms for Peace, sì. Quello non l'ho ancora sentito, ma è uscito ora. Sì, il primo che aveva fatto. Il primo, senti, mi piaceva molto, ma si sentiva che erano dei demo sui quali non aveva messo bocca la band. Perché secondo me, cioè, alla fine Thom Yorke non è il componente di una band alla Genesis. Genesis tutti componevano e tutti prendevano parte alla realizzazione dei brani. Per quanto riguarda i Radiohead, lui è autore di tutti i brani dei Radiohead, a parte qualche cosina scritta da Greenwood. Certo. E quindi quel disco lì di Eraser, ci sono pezzi molto interessanti, ma mi manca la band. Cioè, sono sicuro che in mano ai Radiohead forse potranno diventare ancora più belli. E questa voglia di fare, di staccarsi momentaneamente da Radiohead e fare questo disco nuovo con una band trovata, costruita ad hoc. Cosa ne pensi? Un'idea di allontanarsi dalla band o solo una questione così? Beh, non lo so, penso sia naturale. Lui si è accorto, probabilmente... È stancante stare in una band per tanti anni. Probabilmente ha trovato qualcosa che gli dà ancora un po' di friccicorino. È importante trovare il friccicorino. Se perdi il friccicorino è dura. È un dramma. E uno trova la maniera di ritrovare il friccicorino. Probabilmente adesso Thom Yorke il friccicorino lo trova più suonando con Flea e con Nigel Godrich piuttosto che con il gruppo. Dicevamo prima di Bowie e dei Tin Machine. Team Machine, che a me non piacevano, a me personalmente. Sono due dischi bruttini, quelli di Tin Machine, ma sono quelli che hanno permesso a Bowie di ritrovare il friccicorino. Nel senso che lui veniva dagli anni 80 in cui si era totalmente prosciugato, creativamente parlando. Si rendeva conto che doveva rompere qualcosa per rinnovarsi, per ritrovare un po' di ispirazione. E mettendosi in una band, nei Tin Machine, ha trovato un modo di ritrovare l'ispirazione. Posso dire, il primo è migliore del secondo, a mio parere. Cosa dici? No. Il secondo è più bowiano. Bowie è veramente il cantante della band. Nel secondo si sente che Bowie sta tentando di nuovo di rimettersi a capo della band. E per questo c'è Tim Sales che impone la sua voce su due pezzi. E sono due pezzi bruttissimi. Appunto. No, sì, beh, è un episodio, chiaramente. Però non a caso dopo Bowie ha ritrovato se stesso e ha fatto dei dischi stupendi, che sono Black Tie, White Noise, Earthling, Outside... Certo, aspettiamo, come quindi, abbiamo detto. Quindi, tornando a Thom Yorke, secondo me è importante che l'artista faccia quello che sente di dover fare per ritrovare il friccicorino. Esatto, adesso citiamo una cosa, la compilation che tu hai preparato. Che cos'è questa compilation? Dove partecipi? Perché hai partecipato? Sì, la Labella compilation realizzata dalla Labella Recordings, che è un'etichetta di Empoli, e ci hanno invitato a partecipare con il nostro brano che abbiamo registrato nei loro studi, live in studio praticamente, in poche take, in una mattina. E ci tenevo a farlo sentire sia perché insomma... è un'operazione che mi piace molto, questa qui della compilation, quindi invito chi ci ascolta, magari gli piace il nostro pezzo che non è in Humoresque, quindi è proprio separato. Assolutamente una e si sente poi, tra l'altro, perché è il primo pezzo che abbiamo fatto in formato quartetto e non più a quintetto, quindi senza il nostro vecchio chitarrista. E ancora più dire, Construction of the Body indica quella che secondo me sarà la futura musica che scriverò. Quindi il pezzo più nuovo. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. L'ultimo più recente, sì, e quindi secondo me è molto interessante. Se vi piace, andatevi ad ascoltare sul sito della La Bella Recordings, andatevi ad ascoltare tutta la compilation, che ci sono tanti altri gruppi della nostra zona Pisa-Livorno molto interessanti e tanti altri pezzi altrettanto belli che il nostro. Ok, adesso la sentiamo allora. Perdonami, dimmi. Dovresti far sentire il pezzo della compilation. Si chiama Cloud. Eccola qui che arriva. Ecco, perfetto. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, adesso questa è posso la nuova. Posso chiedervi? Dimmi, vai. Questa basina qui è In God's Country degli U2. Che gli accordi sembrano quelli. C'è un titolo da qualche parte, la sa il nostro coordinatore. Esattamente. In ogni caso possiamo dire una cosa, questa è la nuova era, la nuova via della band praticamente. Sì, nel senso, come dicevo prima, con Humoresque secondo me si è un po' esaurita una la mia vena intimista, quella della canzone. Senti, ora ti faccio sentire. Sei un po' contrario alla canzone vera canzone. Tu ami... No, non sono contrario. A me piace la musica, mi piace tutta la musica, mi piacciono gli artisti che fanno tante cose diverse, non a caso Bowie, certo, che ha fatto di tutto, e secondo me è importante quando prendi una strada, accorgerti quando quella strada è un po' finita, e è importante sterzare e andare in un'altra direzione. Secondo me con Humoresque abbiamo un po' esaurito, io almeno come autore, abbiamo poi esaurito la vena appunto intimista, quella, senti, ora ti faccio sentire questa canzone che mi viene direttamente dal cuore, che ho scritto in questo giorno in cui ero molto triste, e ora ho voglia di fare altro, di fare cose più, non so, diverse. Farcheggiate. Sì, vabbè, questa è una maniera, diciamo, semplice, però sì, qualcosa di... Molto arioso, molto che si allarga con sé. Di non forzatamente intimista. Esattamente. Fai una cosa, cerchi di farla al meglio possibile, poi quando raggiungi un certo risultato dici ok, basta, faccio qualcos'altro. Bene, a proposito di questo, ricordiamo dove si può trovare il disco, il disco sito. Se vivete a Pisa e a Livorno lo trovate nei negozi. Negozi. Se invece non vivete a Pisa e a Livorno, magari vivete a Padova. Esattamente. Lo potete acquistare dal nostro Bandcamp, il disco vero. Quello proprio fisico. Vi arriva a casa proprio. E se no, potete acquistare solo gli MP3 dalla nostra pagina Rockit. Perfetto. Comunque li potete ascoltare in streaming. Certo. Chi ha suonato nel disco oltre la vostra band? C'era qualcun altro che ti ha dato una mano? No, no, no, no, abbiamo fatto tutto da soli. Abbiamo suonato solo noi. Fonico, cinque. Qualcosa? No, il fonico era il nostro batterista, nel senso che l'abbiamo registrato a casa sua. Lui ha uno studio semiprofessionale. Quindi ottimamente. E quindi abbiamo fatto con lui. Poi siamo andati agli studi Westlink di Cascina. Gloriosi studi dove hanno inciso i Prozac più. Ah, ottimo. La cui leader è venuta qua tempo fa. Ah, sì? Ecco. Esattamente, sì. E lì abbiamo fatto il mixaggio e il mastering. Ah, benissimo. Però, diciamo, la fase di arrangiamento, incisione, abbiamo fatto tutto da soli. Ottimo. Quindi praticamente... divertendoci, scambiandoci i ruoli, mettendoci pianoforte, piano elettrico, glockenspiel che c'è in Man on Fire, certo. Synth, tastiere, contrabbasso. Però divertiti. Sempre noi, insomma. Siete divertiti al 100%. Sì. È una cosa positiva, assolutamente. Quindi è l'unica maniera di fare le cose. Autoprodotto al 100%. Ci può sì. È l'unica cosa da fare. Starci dentro con i costi. Autoprodotto, tranne per il fatto che abbiamo un'etichetta. Cioè, rispetto a The Youth Album, qualcuno ha creduto in noi. Ecco. L'etichetta la citiamo. Sì, è la Dreaming Gorilla Records di Francesco Cerisola. Sono di Savona, spero stiano ascoltando e non aspettando Elio e le storie tese su Rai 1. No, sicuramente ti stanno ascoltando, lo sanno. O ci ascolteranno in streaming, quindi Francesco nel futuro, ciao. Tra qualche giorno sarà disponibile dal nostro sito il collegamento per scaricare anche questa trasmissione. Podcast, sì. Allora, suoniamo qualcosa adesso, Federico. Sì, suoniamo un altro pezzo talmente nuovo che la band non l'ha ancora arrangiato. Esiste solo in questa forma voce chitarra, che si chiama Play Your Play. Eccoci, partiamo. Bevo un pochino. Sì, mi pare giusto. Fa caldo e siamo tutti in diretta. No, lo capisco, perché per contrastare il freddo che è fuori. Fate bene. I won't let you cry yourself to sleep. Yes, I won't let you cry yourself to sleep. Won't let you fight this world alone, alone, alone. Won't let you fight this world alone, alone, alone. I won't let you slip outside my hand. this I won't let you slip outside my hand. Won't let you roam this world alone, alone, alone. Try to protect you from the reasonable things you do. I will try to protect you from the reasonable things you do, you do. Come surrender to your fate, play your play. Come defeat your inner threats once and again, again, again. I will try to protect you from the reasonable things you do. Yes, I will try to protect you from the reasonable things you do, you do. So don't let me cry myself to sleep. Please don't let me cry myself to sleep. Come surrender to your faith, play your play. Come defeat your inner threats once and again, again, again. And I will try to protect you from the reasonable things you do. I will try to protect you from the reasonable things you do, you do, you do. Una bella cavalcata, non era elettrica, era acustica, ma come fosse elettrica, ci stava benissimo una chitarra elettrica. Ci sarà, ci sarà. Ci sarà, ci sarà. Quindi l'idea è proprio questa. Dal vivo questa dovrebbe avere un certo peso, cosa dici Federico? Non lo so, spero di sì. Sì, beh, musicalmente qua ha avuto molto peso, secondo noi. Io spero che con altri strumenti, un pochino di ritmo un po' più marcato, magari. A proposito di dal vivo, c'è qualche idea di suonare a qualche parte, Federico? Sì, stiamo organizzando un tour primaverile, abbiamo qualche data tra aprile e maggio. Dunque, al Demo Day di Forlì, ma ancora la data non la so. E poi, dunque, non me le ricordo. Beh, qualcosa sì. Chiedimele dopo. Ecco, chiedimele dopo che le riguardo sul diario e poi te le dico. Dal punto di vista, quando sono andata dal vivo sul palcoscenico, cosa sviluppi? La chitarra elettrica? Sviluppi certi strumenti? No, la chitarra elettrica è l'unica cosa che non suono. Ah, perfetto. E solo acustica oppure tastiera. Io iniziavo come bassista, quindi il mio sogno sarebbe quello un giorno di riuscire a cantare e suonare il basso. Ancora non ci sono alla riuscito. Paul McCartney. Alla Sting. Alla Sting, va bene. Meglio ancora. Meglio ancora, va bene. Però, no, però la chitarra elettrica è l'unico strumento su cui non mi sono misurato. Però suoni le tastiere, quello sì. Sì, sì, sì. Piano, synth. Sì, poi appunto c'ho un signor chitarrista che è Luca Guidi, quindi lascio fare a lui tutte le... Lasci a Luca Guidi di ampliare il discorso oppure ma no? Sì, una specie sì. Di jam session la fate quando fate le esibizioni live oppure è una cosa, un cosa dunque, noi, sui binari? Noi dal vivo abbiamo un pezzo che si chiama Car, che era Car Be With You, che era nel nostro disco precedente, che è pensato apposta per metterlo in fondo. Per cui dopo la canzone c'è una lunga coda dove ognuno fa un po' il cavolo che gli pare. Certo. Nel senso che ci permette appunto, come dicevi te, di fare una jam session. Se vuoi dopo ve lo faccio sentire. Certo. Chiaramente senza jam session. Chiaro. Però sì, quindi cerchiamo di tenerci un po' questi momenti dal vivo di libera creazione. E quindi, così come io cerco di tenermi dei momenti più miei, quindi un paio di pezzi li faccio io voce chitarra pure in concerto con la band. Perché, ti ho detto, la cosa che mi piace di più nella musica è variare. Quindi è importante che nella stessa serata ci sia modo di far sentire varie facce, vari generi, varie atmosfere differenti. E quindi si unisce al discorso di libertà totale, o no? Sì. Di ampliare costitutivamente sempre su determinati limiti per poter creare in continuazione. Sì, è importante che uno non si senta legato a obblighi, diciamo, di genere o di... Ma si crea anche sul palco? Cioè, senti, hai inventato qualche pezzo suonandolo? per la prima volta sul palco, esibendoti sul palco? Oppure no, io no. Sono uno molto legato all'idea della composizione. È in questo che sono molto poco jazzistico. Diceva De André, a me il jazz piacerebbe anche, peccato per tutti quegli assoli. E poi la gente rideva. Però in realtà io la penso un po' così, nel senso che il jazz a me affascina tantissimo. Però questa enfasi sulla performance, che mette invece da parte la composizione, non mi appartiene. A me appartiene molto di più l'idea che il brano è questo e fa così, e ora te lo suono dalla prima all'ultima nota esattamente come fa. Questo però sono io, Federico. Nella band c'è anche chi non la pensa come me. Dicevamo appunto Luca Guidi, sì, e anche Fabrizio Balesti, bassista, sono due jazzisti, oltre a suonare nei Novadef. E quindi ho trovato importante che mantenessimo delle parentesi o comunque delle zone in cui ci fosse anche questa influenza. Ma queste nuove sonorità allontanano questo discorso di composizione o rimane? Chi lo sa, secondo me no. Secondo me con un buon lavoro di arrangiamento si può riuscire a mettere insieme anche cose in teoria non abbinabili. Sì, basta lavorarci un pochino, basta trovare la nostra maniera, e poi quando ti accorgi che hai messo insieme due cose che nessuno aveva mai pensato di mettere insieme, ti accorgi che hai fatto una cosa tutta tua. Perfetto. E allora ne vai orgoglioso. Certamente. Allora, non so, cosa c'è in scaletta, Sergio? C'è qualche altro pezzo che non abbiamo utilizzato? Abbiamo finito tutto, però se volete, insomma, possiamo ascoltare ancora qualcosa. Cosa dici, Federico? Dal vivo? Beh, vi faccio sentire... Dal vivo anche, dal disco. O dal disco, come vuoi. Tutte e due? Anche, sì, anche penso che il tempo ci sia, sì. 10 allora, minuti. Ascoltiamo Morning Lights. Ecco, che lo abbiamo sentito. Che è la traccia 9? Mi pare di sì, adesso ti dico subito. Morning Lights, traccia numero 9. Ok. Eccola qua che arriva. Torniamo rock. Bene. Gli ultimi 10 minuti con i Nova Death. Death è un'altra cosa. Allora, siamo quasi al termine del nostro appuntamento con Rock Wave Live del mercoledì, ogni mercoledì dalle 22 alle 24 su Blu Radio Veneto, questa sera con i Nova Def nella voce di Federico Russo. Salutiamo anche gli altri componenti, se per caso si stanno ascoltando, dei Nova Def. Ciao! Ciao! Perché non siete qui? Lontanuccia la situazione. In un prossimo futuro, non si sa mai. Ma certo! Non si sa mai musicalmente. Certo, per questo esistono le fruste. Esattamente. Ok, abbiamo concluso questa bella cavalcata di quasi due ore, anzi di due ore con Federico Russo. Adesso, caro Sergio, abbiamo deciso, Federico interpreta due pezzi live, uno dietro l'altro. Nonostante l'ora tarda. 9 minuti e 20 secondi a disposizione. Disposizione tua. Allora corro alla chitarra. Grazie okay. Federico. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima Federico, grazie a Sergio Bortolami in regia. Domani ci sarà Agostino con un musical, caro Sergio, dedicato al Non è nuovo Agostino, no. Il musical. Piace molto ad Agostino. Il titolo del musical veneziano, Casanova veneziano praticamente, la storia chiaramente di Casanova. Quindi domani sera alle 21? Alle 21. Alle 21 qui su Blu Radio Veneto. Ciao Maurizio, ciao, ciao a tutti. Ciao Sergio, grazie. Out tonight, 'cause I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight. Anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Oh, I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into us, by your side, it's such a heavenly way to drive. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, oh, the pressure and the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Again under bus, I thought I got my chances coming fast, and a strange fear gripped me, and I just couldn't pass. Oh, oh, oh. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck both of us, to die by your side, oh, the pleasure and the beauty that's mine. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. There is a light that never goes out. Dopo Morris e Mar, qualcosa d'altro di Federico. Eh sì. Buonanotte, ciao. Questa si chiama Car. Steps into your car, doors decluttered, and it doesn't matter where, likes to be with you. And he sits in at your side in the heart of summer, and he's gentle like a dove, like a father, and you listen to his words, stripes of white and blue. He likes to be with you, likes to be with you. Likes to be with you, likes to be with you. Dream turns into tears. I guess I'm right in. For in dreams you're all alone. That's what matters. And I guess you just won't see. It's hard to cope with truth. He likes to be with you, likes to be with you. He likes to be with you.